La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana, buon lunedì 27 di gennaio 2014, buona giornata della memoria, io insieme a un ospite e insieme a voi parlerò, non oggi che è la giornata della memoria, faremo il giorno dopo il giorno della memoria perché bisogna parlarne al di fuori delle circostanze obbligate. Invece vado subito al tema del giorno, sperando che numerosi tra voi chiamino l'800240024 e mandino messaggi al 349-238-6666, perché il tema del giorno è il presidente dell'INPS Mastrapasqua. Il presidente dell'INPS Mastrapasqua, che come avrete letto forse o avete sentito tra giornali e giornali radio, è indagato perché in uno dei suoi tanti incarichi, tenteremo di capire quanti, e oltre che essere presidente dell'INPS è anche direttore generale da molti anni di un ospedale, direttore generale cioè significa il massimo responsabile esecutivo di un ospedale, e nel frattempo è indagato perché avrebbe, dice l'accusa al pubblico ministero che lo indaga a Roma, lui messo in piedi un sistema attraverso il quale l'ospedale stesso truffava la Regione Lazio, l'erogatrice di servizi e che paga naturalmente il conto della sanità, la Regione Lazio, per molti milioni. E anzi avrebbe anche il presidente dell'INPS, direttore generale di questo ospedale, fatto in modo che l'ospedale fosse agevolato, perché l'ospedale aveva un contenzioso contributivo, cioè avrebbe un arretrato di contributi con la stessa INPS, e avrebbe il presidente dell'INPS, ma direttore generale dell'ospedale, fatto in modo tale che questo debito contributivo dell'ospedale verso l'INPS fosse ceduto a terzi. Allora, non ci occupiamo oggi dell'indagine penale, perché io sono un garantista e ovviamente Mastrapasqua avrà tutte le facoltà del caso di rispondere ai magistrati, all'accusa, nel procedimento, vedremo se sarà prosciolto, rinviato a giudizio. Noi non ci occupiamo del rilievo penale, di cui non avremo titolo, le carte non le abbiamo viste, la situazione non la conosciamo, ma invece ci occupiamo del fatto che il presidente dell'INPS ha da molti anni, dal 2008 siamo al 2014, due caratteristiche di fondo che ne fanno una figura di rilievo nell'ambito dei vertici apicali della pubblica amministrazione italiana, perché da una parte arrivò come commissario straordinario all'INPS e dopo pochi mesi divenne presidente dell'INPS e nella legge finanziaria del 2010 ottenne, cosa che è rimasta nell'INPS fino a questo momento, con un grande trasversale consenso di partiti, che l'INPS, come è stato dal 2008 oggi, non abbia avuto e non abbia ancora gli organi ordinari che uno si aspetterebbe al vertice di un istituto in capo al quale sta il 16% annuale di PIL della spesa previdenziale di assistenza italiana, perché l'INPS non ha un consiglio d'amministrazione, non ha un amministratore delegato, non ha un direttore generale, malgrado tutti i miliardi e tutte le faccende di cui si deve occupare, malgrado il buco di 9 miliardi in conto economico dopo la confluenza nell'istituto dell'INPDAP e così via. No, dal 2008 a oggi, prima caratteristica della gestione Mastrapasqua, tutto è accentrato nelle mani del presidente. Presidente che ha la rappresentanza, quindi non solo legale, come capita ai presidenti nelle società, ma che predispone il bilancio, predispone i piani di spesa, di investimento, attuale linea di indirizzo strategico dell'istituto, una specie di monocrazia. Prima caratteristica. La seconda caratteristica è che l'ex commissario, poi presidente unico e monocratico dell'istituto, è che in quella qualità come commissario firmò una circolare per impedire il doppio incarico ai dirigenti dell'istituto, sacrosanto principio, ha moltissime altre cariche. Il numero preciso, a dirvi la verità, non è neanche possibile farlo, e bisogna stare attenti perché Mastrapasqua ha da sempre detto attenti agli obblighi di privacy. Però diciamo che per quello che consta, oltre alla presidenza monocratica dell'INPS e oltre alla direzione generale, ripeto, incarico esecutivo di un ospedale, oltre alla direzione di una casa di cura per anziani, e il presidente del più grande fondo di investimento immobiliare italiano, FIMIT, che ha anche che a propria volta partecipa a ben 31 fondi, di cui 5 quotati, è amministratore delegato di diverse società, è presidente di collegi sindacali di ADR Engineering, è Eurtel del Tesoro, è revisore di conti in Autostrade per l'Italia, in Coni Servizi, in Loquendo, in alcune di queste società probabilmente non lo è più, bisogna stare attenti a fare l'elenco. Comunque, insomma, c'è chi dice 20, chi dice 23, chi dice 25 incarichi, e molti di questi sono incarichi che prevedono incombenze esecutive pesanti, come potete immaginare. Allora, questa è la questione, e di fronte a questa questione il presidente del Consiglio Ricoletta ha detto: bisogna fare chiarezza. Io mi sono grattato la testa e personalmente penso che un governo, di fronte a una cosa di questo genere, più che dire con parole bisogna fare chiarezza, deve parlare per atti, cioè deve prendere una decisione di fronte a queste due questioni: i molteplici incarichi da una parte, dall'altra la totale, secondo me, mancanza di trasparenza di un organo dell'importanza come l'INPS, l'istituto come l'INPS, che è tutto concentrato senza organi ordinari. Questa è la premessa, vediamo cosa ne pensate voi. Ma per parlarne abbiamo con noi un collega molto autorevole, un giornalista del Fatto Quotidiano, Stefano Feltri. Buon pomeriggio, Feltri. Buongiorno Oscar, buongiorno agli ascoltatori. Allora, innanzitutto, che ne pensa lei di questa vicenda, quella penale e delle due faccende che ho citato, un po' anomale secondo me? Ma io sono un po' perplesso, devo dire, in questo momento, perché la vicenda penale, quella sulla presunta, almeno quella sulla presunta compensazione tra crediti verso una ASL e debiti verso l'INPS, in cui Mastrapasqua avrebbe usato il suo doppio ruolo di direttore dell'ospedale, di presidente dell'INPS, per dire: ci penso io, noi dobbiamo dei soldi all'INPS come ospedale, ma la regione ce ne deve degli altri, facciamo una compensazione e risolviamo. Noi l'abbiamo scritta in un articolo, è stata rivelata in un articolo del Fatto Quotidiano. Giusto. Nel maggio del 2012. Sì. Allora, io trovo un po' singolare che probabilmente dopo questo articolo è stato un esposto in procura di qualcuno, e appunto quasi due anni dopo questa cosa viene fuori, diventa uno scandalo politico, quando quell'articolo non è mai stato smentito. Quindi, come dire, io non credo che uno si debba dimettere perché è indagato, si deve dimettere se fa delle cose spiacevoli. Allora, se quelle cose Mastrapasqua le ha fatte e non sono state smentite da nessuno, forse le ragioni delle sue dimissioni c'erano allora come ci sono oggi. Questo da un primo punto. Il secondo, c'è una grande ipocrisia anche sul numero di cariche. Che Mastrapasqua sia un caso incredibile di somma di cariche deriva, cioè è noto anche questo da anni. La mia impressione, se la devo dire proprio esplicitamente, è che Mastrapasqua è stato per anni protetto da un sistema di potere che adesso è venuto meno. È noto che lui aveva un rapporto diretto con Gianni Letta, con quel mondo lì che adesso è svanito, diciamo, e quindi adesso forse Mastrapasqua è sacrificabile, tanto che anche noi abbiamo scritto, non smentito da nessuno, che adesso c'è Tiziano Treu, l'ex ministro del lavoro, che sarebbe il candidato di Letta a prendere il posto di Mastrapasqua all'INPS. Quindi, come dire, in Italia è sempre lecito sospettare qualche retro pensiero, ma a me stupisce che il premier si esponga così direttamente contro un alto funzionario, cioè un alto burocrate, mentre ha sostanzialmente taciuto per esempio sul caso De Girolamo e su altre cose a lui più vicine e politicamente più sensibili. Fetti dice, se capisco bene, perché lo fa, perché immagina e calcola che non rischia molto meno politicamente. Sì, ma anche perché si chiama spoil system. Mastrapasqua non è uomo di fiducia evidentemente di questo governo, di questo blocco di potere, e quindi viene fatto fuori usando due cose note da anni e per metterci qualcun altro. Questa è la mia opinione, che non è, come dire, che prescinda dalla valutazione di merito sulle cose, sì. Poi avremo modo di parlare, immagino. Senta, ma da questo punto di vista cosa ha pensato quando all'intervista dell'ex ministro Fornero c'era di mezzo la faccenda degli esodati, con il ministro Fornero ha detto l'INPS non è stato in condizione di darmi numeri, anzi me ne ha dati alcuni, poi sono rivelati altri e così via. In un'intervista oggi l'ex ministro Fornero dice: io ho provato a rimuoverlo, ma in realtà le pressioni politiche sono state tali che mi è stato impedito. Erano esattamente le pressioni politiche, perché il sistema Letta Berlusconi era ancora troppo forte. L'ha letta così quell'intervista, Feltri? Io sì, sostanzialmente sì, nel senso che c'è stato uno scontro davvero durissimo tra la Fornero e Mastrapasqua, che si è combattuto a colpi di esodati, a colpi di allarmi, in cui la Fornero sosteneva che i numeri dell'INPS erano diversi, l'INPS dice che il Ministero non li aveva saputi leggere, poi c'erano state delle tensioni tra Mastrapasqua e Nori, che è appunto il direttore generale. Esatto. E quindi c'era stato davvero un forte scontro, in cui Mastrapasqua ha dimostrato di sapersi muovere benissimo, perché lui ogni volta che, come dire, sentiva la poltrona un po' a rischio, creava un allarme di un qualche genere che rendesse difficile la sua rimozione. L'abbiamo visto anche pochi mesi fa, quando lui ha denunciato il buco dell'INPDAP, cosa arcinota, che sappiamo da anni che quando l'INPS ha assorbito l'INPDAP questo ha creato un problema di conto economico, come dicevate prima, ma lui l'ha fatto con una lettera ai ministri Giovannini e Saccomanni, che poi è stata fatta uscire, guarda caso, a dicembre, una lettera di quest'estate, in maniera che così lui potesse dire: ma come, mi fate fuori, è soltanto perché io ho denunciato il buco, e allora si è creata un'assicurazione. Questo giochino gli è riuscito per un po', adesso evidentemente non riesce più. Però certo, la Fornero è uscita sconfitta da quella vicenda, e se uno pensa al bilancio della Fornero come ministro si ricorda quasi soltanto gli esodati, nessuno pensa neanche più agli effetti sulla finanza pubblica della sua riforma. E se c'è stato il caso esodati, diciamo che Mastrapasqua ha certamente contribuito quantomeno a dare autorevolezza alle proteste dei sindacati e delle associazioni dei lavoratori. E quindi insomma, diciamo che per Stefano Feltri, sono molto d'accordo, è anche un caso di ordinario spoil system. Ora abbiamo un minuto su informazione stradale, poi torniamo però al punto. Ma non è il momento di dare organi ordinari a questo maxi ente, invece di metterci un altro neocommissario straordinario che ha tutto in mano? La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:46, 57 secondi nell'elenco degli organi che mancano, facendomi prendere da un erroneo entusiasmo. Ho detto all'inizio che manca il direttore generale, ha fatto benissimo Stefano Feltri, lo ringrazio, correggimi. No, il direttore generale c'è, Nori, ed è stato anche un po' in polemica interna, lo abbiamo scritto. Quello che manca secondo me sono degli organi ordinari di gestione, e io credo che per un istituto dell'importanza dell'INPS sarebbero fondamentali. Sentiamo rapidamente cosa pensano due nostri ascoltatori. Innanzitutto Davide, che ci chiama da Roma. Prego Davide. Grazie Oscar, innanzitutto voglio fare complimenti alla trasmissione. Niente, io volevo dire, fare una piccola osservazione. Io sono un dipendente che lavora a contratto all'interno dell'INPS da 4 anni, ok? Sono venuto a conoscenza di un mondo clamoroso all'interno dell'istituto pubblico. Io sono un consulente che nel giro di pochi anni è diventato precario all'interno dell'INPS, in una gestione secondo me dell'istituto scellerata. Io ho una laurea scienze politiche, ho un curriculum di 15 anni di lavoro, e per pur di lavorare ad oggi sono stato costretto, praticamente messo alle strette, a dover firmare un contratto di lavoro normale, al di sotto ovviamente di quello che mi spetterebbe, no? E dico, che osservazione faccio io? I soldi che l'INPS stanzia per pagare tutti i consulenti, l'attività informatica che si regge appunto su 1.000 precari o 500 quanti sono tanti. E io dico, davanti a questo tipo di clamorosa scandalo che esce sul Mastrapasqua, che ha 25 incarichi, come si può coniugare, come si può far coincidere questo tipo di gestione scellerata dell'istituto con quello che poi dopo è la vostra realtà di precari, questo per essere chiari e sintetici. Chiarissimo, esatto. Davide, chiarissimo Davide, grazie alla testimonianza. Sentiamo Simone che ci chiama da Milano. Prego Simone. Sì, pronto, buonasera, grazie per avermi fatto intervenire in trasmissione. Volevo dire semplicemente che la vicenda Mastrapasqua è semplicemente allucinante. Perché? Ma di quale trasparenza possiamo parlare in questo paese di fronte a una vicenda del genere? Una persona che è messa al vertice di un ente dello Stato che ha un numero di incarichi che addirittura non si sa neppure quanti sono, e che per un presunto motivo di riservatezza non si potrebbe neanche in teoria sapere. Detto questo, Simone, come diceva Fornero nell'intervista, se ce l'ha è perché è illegale che ce l'abbia. Questa era la risposta, devo dire, per me non troppo soddisfacente, perché da questo punto di vista un ministro può dire cambiamole queste cose, questa è la mia opinione. Resta il fatto che chi si occupa professionalmente, dovendo guardare i bilanci dell'INPS anno dopo anno, ho visto che stiamo parlando di una roba dove si concentra, ripeto, più del 16% del PIL tra spesa previdenziale e assistenziale nel nostro paese, e diciamo che si leggono da anni pareri sui bilanci eccetera eccetera, per i quali anche gli organi di controllo interno in buona sostanza dicono: beh, noi non è che possiamo fare molto. In realtà non è questa l'anomalia che ci dovrebbe preoccupare di più, Feltri? Ma assolutamente sì, sono due aspetti da questo punto di vista. Il primo, che è una cosa che ho chiesto anche a Mastrapasqua quando ne ho avuto l'occasione, ho detto: scusi, io faccio fatica a fare un lavoro solo per volta, non riesco bene a capire come lei faccia a farne bene 25, e lui ha spiegato che insomma si sa organizzare bene, dorme poco la notte, insomma più o meno le stesse argomentazioni, non ha tempo libero, non ha hobby, diciamo risposte che mi hanno lasciato un po' perplesso, ma soprattutto perché appunto, come si diceva adesso, se non c'è un chiaro sistema di persone intorno che sono in grado di dire se lui lo fa bene o no, il suo mestiere è la sua parola contro la nostra. Cioè, va benissimo, lui può avere 25 incarichi, ha ragione la Fornero, la legge glielo consente, però ci deve essere qualcuno intorno che, come dire, misura poi la sua performance. Non si capisce perché l'INPS appunto è più potente, più importante di un ministero, ma non c'è né, diciamo, il controllo democratico né il controllo, come dire, aziendale che c'è nelle partecipate dello Stato altrettanto rilevanti, diciamo quelle più le aziende, insomma le ENI e dintorni. Quindi è una situazione di sostanziale, come dire, onnipotenza, un monarca che risponde sostanzialmente alla sua coscienza. E l'INPS ha già una struttura talmente complicata, penso per esempio all'eterno dibattito sul fatto che gestisce insieme previdenza e assistenza, con quindi diciamo un sistema che si deve reggere da solo, che è quello che si è sui contributi e le pensioni, è un sistema che non si può reggere da solo, perché le pensioni agli invalidi vanno pagate a prescindere che gli invalidi abbiano fatto qualcosa, abbiano versato contributi, no? Per cui escono sempre questi articoli sui giornali in cui si dice buco nell'INPS perché solo metà degli italiani paga i contributi. Cioè è una situazione che andrebbe chiarita, andrebbe riorganizzata, l'INPS andrebbe adattato a un sistema, a un mondo più complesso in cui ci sono anche meno soldi e bisogna gestirli meglio. Avere una persona sola che deve fare tutto e che contemporaneamente sta anche in Equitalia e quindi gestisce tutto un altro blocco, diciamo, di funzioni dello Stato, è forse la premessa sbagliata per una governance efficace. È vicepresidente di Equitalia e presidente di società operative Equitalia Nord, Centro e Sud. Per capirci, alcuni di voi chiedono: ma chi lo nomina? Guardate che se guardate il curriculum di Mastrapasqua, lui giustamente è fiero del fatto di aver avuto il parere previsto delle commissioni del lavoro di Camera e Senato all'unanimità entrambe le volte in cui è stato confermato. Naturalmente, certo, la Corte dei Conti sulla legge finanziaria del 2010, che accentrava tutte le funzioni delle sue mani, la bocciò, però la politica fece finta di niente. Naturalmente l'OIV, che cos'è l'OIV? È l'organismo indipendente di valutazione delle performance, che in teoria, no, dovrebbe per così dire esprimere dei pareri sull'operato degli organi. Beh, esprime dei pareri, ma secondo la legge istitutiva, questo si è dovuto a Brunetta, la riforma Brunetta, e i pareri di questo organo sono obbligatori, sì, sono obbligatori, ma non sono vincolanti, quindi il presidente se ne può bellamente fregare. Sta di fatto che non c'è un consiglio d'amministrazione. Secondo lei Feltri, Letta questa volta arriva al punto e ce lo mette un consiglio d'amministrazione, o mette di nuovo un altro commissario da spoil system di marca diversa, ma lascia tutto nelle sue mani? Questa è una buona domanda. Diciamo, se si vuole essere ottimisti, possiamo dire che il fatto che lo scandalo su Mastrapasqua in questo momento non sia soltanto sul fatto che è indagato, ma sul, diciamo, sul suo modo di gestire il potere, è una premessa positiva, perché dice, allora mettiamoci uno che faccia davvero il manager con un consiglio di amministrazione, insomma superiamo questa gestione monarchica. Io non, finora non ho mai sentito Letta però parlare della necessità di riformare l'INPS, non ho mai sentito nei suoi mille discorsi nemmeno programmatici io dire che bisogna aumentare la trasparenza e riformare un po' anche appunto questa parte di burocrazia che ormai per consenso generale abbiamo capito che è il vero ostacolo alla riforma del paese, insomma è la casta non riformabile che neanche le elezioni possono cambiare, no? Quindi non ho mai sentito parlare. Posso fare una battuta cattiva, vediamo come la pensa Stefano Feltri. Siccome c'è anche nell'INPS un consiglio di indirizzo e vigilanza, indirizzo strategico naturalmente, quindi non operativo, di 24 membri e la maggioranza, la grande maggioranza sindacale, forse stavolta sono i sindacati che per contare di più e non volere un commissario che può fare tutto lui, sono i sindacati che chiederanno magari un consiglio di amministrazione, o no secondo lei? Ma diciamo gli esegeti delle dinamiche sindacali notavano oggi che il sindacato dei pensionati ha chiesto le dimissioni di Mastrapasqua, ma la CGIL no. Esatto. E questo potrebbe essere indicativo del fatto che sono un po' conniventi, scusi, lo dico fuori dai denti. Beh, assolutamente, assolutamente. Noi sul fatto, da quando è incredibile, appena abbiamo iniziato a occuparci di sindacati, non per raccontare, diciamo, le loro giaculatorie sulla crisi, ma per raccontare come gestiscono i soldi, come costruiscono il loro potere, siamo stati inondati di notizie, segnalazioni. C'è ormai un'insoddisfazione generale, anche per, appunto, perché anche i sindacati sono percepiti come una casta, una burocrazia non riformabile. Quindi in questo caso specifico penso di sì, che c'è una qualche forma di connivenza che magari noi riusciamo solo a intuire sulla superficie, ma che nella sostanza Penso che ci sia all'interno dell'INPS un po' di connivenza sindacale. Il silenzio dei segretari generali su questa vicenda che riguarda l'INPS come governato, più dell'indagine giudiziaria, ripeto, come governato, secondo me la dice lunga. Alcuni ci chiedono quanto guadagna. Guardate, noi sappiamo e possiamo dirvi come giornalisti che per il suo compenso il presidente c'ha 265.000 dichiarati, più 50 e rotti mila perché prende anche l'equivalente del CDA che non c'è, ha 1.300.000 che è dichiarazione dei redditi 2010, si arriva sommando a tutti gli altri incarichi, quali siano. Dunque, io ho recuperato anche quello del 2011 in cui era 1.200.000, eravamo sempre lì, però va ricordato che questo era prima che entrasse in vigore il tetto agli stipendi, quindi non lo sappiamo. 300.000 euro, quindi lui in una puntata di 8:30 gli avevo chiesto se lui dal 2013 avrebbe avuto un reddito solo di 300.000 euro, lui aveva detto di sì, però appunto non ne abbiamo l'evidenza ma dobbiamo dire che per garantismo noi stiamo riportando cifre vecchie. Un ascoltatore ancora, Maria, che ci chiama da Roma, prego Maria. Salve, buonasera. Io ci vivo di IMSS, per cui ho... No, ci vive di IMSS per la pensione o perché ci lavora? Ci lavoro. E vi assicuro che la tensione è al massimo, al massimo. Stamattina per la prima volta le luci dove stanno i bottoni erano accese alle 7:10. La tensione ma Strapasqua non dorme, c'è tanti incarichi, quindi lo sappiamo. Per cui, poi volevo fare una piccola annotazione quando parlate degli invalidi civili che creano il buco IMSS. Ecco, volevo fare chiarezza su questo perché io ho proprio un pochino di questo. È un po' addetta a quello. Non proprio a questo, però insomma. Allora, gli invalidi civili non li paga l'IMSS. Cioè, noi IMSS prendiamo dei trasferimenti dallo Stato. Sì. Cioè è bene fare chiarezza sul fatto che all'interno dell'INPS c'è una gestione che viene... No. Ma aspetti un secondo, il problema è che non è che se viene da fiscalità generale non esce dalle nostre tasche come contribuenti. Il problema di cui ci occupiamo spesso è, diciamo, la molto più elevata percentuale che nell'attribuzione di trattamenti di invalidità c'è in una parte d'Italia, in alcune parti d'Italia. Anche lì le commissioni dicono che c'è fortissima connivenza, si è usato questo strumento come ammortizzatore sociale aggiuntivo, ma però è improprio, capisce? E quindi che vengano a voi dai trasferimenti generali, da fiscalità, cioè sempre dalle nostre tasche, escono. Allora, speriamo di avervi dato qualche informativa, non solo sulla vicenda giudiziaria, e speriamo che Letta capisca. Dateci un CDA! Non vogliamo un altro super amministratore solo perché la pensa politicamente diverso. Il problema resta. Grazie a Stefano Feltri, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.